85. Maccheroni alla napoletana primo. Ve li garantisco genuini e provati con la scorta di una ricetta che mi sono procurato da una famiglia di Santa Maria Capua Vetere. Vi dirò anche di essere stato lungo tempo incerto avanti di metterla in esecuzione, non persuadendomi troppo quel guazzabuglio di condimenti. A dir vero, questi maccheroni non riescono cattivi, anzi possono incontrare il gusto di chi non è esclusivista del semplice. Prendete un pezzo di carne nel lucertolo e staccatelo con fettine di prosciutto, grasso e magro, zibibbo, pinoli e con un battutino di lardone, aglio, prezzemolo, sale e pepe. Accomodata la carne in questa maniera e legata con lo spago per tenerla più unita, ponetela al fuoco con un battuto di lardone e cipolla finemente tritata, rivoltatela spesso e bucatela a quando col lardatoio. Rosolata che sia la carne e consumato il battuto, aggiungetevi 3 o 4 pezzi di pomodoro sbucciati e quando questi siano distrutti, unitevi a poco per volta del sugo di pomodoro passato. Aspettate che questo sia alquanto ristretto, poi versate tanta acqua che copra il pezzo, condite con sale e pepe e fate bollire a fuoco lento. In mancanza di pomodori freschi, servitevi di conserva. Col sugo e con formaggio piccante, come usano i napoletani, si condiscono i maccheroni e la carne serve di companatico. Quanto ai maccheroni, insegnano di farli bollire in un recipiente largo, con molta acqua e di non cuocerli troppo.